Se Madame de Cambremer si trovava quella sera a teatro, era perché la principessa di Parma, priva di snobismo come la maggior parte delle autentiche altezze, ma in compenso divorata dall'orgoglio, dall'ansia di carità, pari in lei alla passione per ciò che credeva fossero le arti, aveva ceduto qualche palco qua e là a donne come Madame de Cambremer, che non appartenevano all'alta aristocrazia, ma con le quali la principessa era in contatto per le sue opere di beneficenza. Madame de Cambremer non staccava mai gli occhi dalla duchessa e dalla principessa di Guermantes, facilitata in questo dal fatto che, non avendo con loro alcun rapporto effettivo, non poteva avere l'aria di sollecitare un saluto. Eppure, essere ricevuta da quelle due grandame era lo scopo che perseguiva con instancabile pazienza da 10 anni. Aveva calcolato con assoluta certezza di riuscirci entro i prossimi 5, ma, colpita da una malattia che non perdona e di cui, credendosi esperta in medicina, era convinta di conoscere l'inesorabilità, temeva di non poter vivere tanto a lungo. Quella sera, perlomeno, la sollevava il pensiero che tutte quelle donne che conosceva così poco l'avrebbero vista in compagnia di uno dei loro amici, il giovane marchese di Beausergent, fratello di Madame d'Argencourt, frequentatore di entrambe le società, la cui presenza veniva sfoggiata dalle dame della seconda con notevole compiacimento sotto gli occhi di quelle della prima. Il marchese si era seduto dietro Madame de Cambremer su una sedia messa di traverso per poter sbirciare negli altri palchi. Conosceva tutti lì e, per salutare con l'incantevole eleganza della sua bella figura flessuosa, della sua graziata testa bionda, si raddrizzava, sollevandosi a metà, sorridendo dagli occhi azzurri, con un misto di rispetto e di simboltura, stagliandosi con precisione nel rettangolo del piano obliquo dove era situato, come in una di quelle vecchie stampe che raffigurano un gran signore altero e cortigiano. Accettava spesso d'andare a teatro così con Madame de Cambremer, sia in sala sia all'uscita, nel vestibolo, le rimaneva coraggiosamente accanto, in mezzo alla folla delle sue amiche più brillanti, alle quali evitava di parlare per non metterle in imbarazzo, quasi fosse in cattiva compagnia. Se in quel frattempo passava la principessa di Guermantes, bella e leggera come Diana, seguita dallo strascico di una delle sue incomparabili cappe, facendo voltare ogni testa e attirando ogni sguardo, quello di Madame de Cambremer più di qualsiasi altro, il signor de Beausergent, lasciandosi assorbire dalla conversazione con la sua vicina, al sorriso amichevole e abbagliante della principessa rispondeva appena, come costretto, con l'educato riserbo e la caritatevole freddezza di chi sa che la propria gentilezza può essersi fatta momentaneamente imbarazzante. Anche se non avesse saputo che la barcaccia apparteneva alla principessa, Madame de Cambremer avrebbe ugualmente arguito che Madame de Guermantes era l'invitata, dall'interesse più vivo che questa, per gentilezza nei confronti della sua ospite, mostrava di accordare allo spettacolo del palcoscenico e della sala. Ma, contemporaneamente a questa forza centrifuga, una forza inversa, sviluppata dallo stesso intento di cortesia, riconduceva l'attenzione della duchessa sul proprio abbigliamento dalla gretta al corpetto alla collana e anche su quello della principessa, verso la quale affettava un atteggiamento da suddita, da schiava, venuta lì appositamente per vederla, pronta a seguirla altrove se alla titolare del palco fosse venuto l'estro d'andarsene e disposta a prendere in considerazione il resto della sala, dove peraltro contava molti amici, nei cui palchi si recava in altre settimane e nei cui confronti dava allora immancabile prova d'un lealismo non meno esclusivo, relativista e ebdomadario, soltanto come se fosse composto di estranei da osservare con curiosità. Madame de Cambremer era stupita di vedere lì la duchessa quella sera. Conosceva la sua abitudine di trattenersi molto a lungo a Guermantes e pensava che fosse ancora là. Qualcuno, tuttavia, Le aveva raccontato che a volte, quando a Parigi c'era uno spettacolo tale da suscitare il suo interesse, Madame de Guermantes, subito dopo aver preso il tè con i cacciatori, faceva preparare una delle sue carrozze e al tramonto se ne andava al gran trotto attraverso la foresta crepuscolare e poi lungo la strada a prendere il treno a Combré per essere a Parigi in serata. «Forse viene da Guermantes apposta per sentire la Berma», pensava con ammirazione Madame de Cambremer. E ricordava d'aver udito Swann affermare, nel gergo ambiguo che condivideva con il signor de Charlieu, «La duchessa è una delle creature più nobili di Parigi, dell'élite più scelta, più raffinata». Quanto a me, che facevo derivare dai nomi di Guermantes, di Baviera e di Condé il modo di vivere, di pensare delle due cugine, non potevo più fare altrettanto con i loro volti da che li avevo visti, avrei preferito conoscere il loro giudizio su Phèdre piuttosto che quello del miglior critico del mondo. In questo, infatti, non avrei trovato che intelligenza superiore alla mia, certo, ma della stessa natura. Mentre ciò che pensavano la duchessa e la principessa di Guermantes e che mi avrebbe fornito sul carattere delle due poetiche creature un documento inestimabile, lo immaginavo con l'aiuto dei loro nomi, vi annettevo un fascino irrazionale ed era con la sete e la nostalgia di un febbricitante che chiedevo alla loro opinione su Phèdre di restituirmi l'incanto delle mie passeggiate pomeridiane d'estate dalla parte di Guermantes. Madame de Cambremer cercava di discernere il tipo di toilette indossato dalle due cugine. Personalmente non dubitavo che fosse qualcosa di affatto peculiare, non soltanto nel senso che, un tempo, la livrea col colletto rosso e con i risvolti azzurri apparteneva in modo esclusivo ai Guermantes e Condé, bensì piuttosto come il piumaggio d'un uccello non è un semplice ornamento della sua bellezza, ma un'estensione del suo corpo. La toilette delle due donne mi appariva come una materializzazione nervosa o iridata della loro attività interiore, e al pari dei gesti che avevo visto compiere alla principessa di Guermantes e che, ne ero certo, corrispondevano a un'idea nascosta, le piume che scendevano dalla fronte della principessa e il corpetto scintillante di lustrini della cugina sembravano avere un significato, essere per ciascuna delle due un attributo esclusivamente suo e di cui avrei voluto conoscere il senso. L'uccello del paradiso mi pareva inseparabile dalla prima, come il pavone di Giunone, e pensavo che nessuna donna potesse usurpare alla seconda il suo corpetto di lustrini più che a Minerva la sua sfavillante egida sfrangiata. E quando i miei occhi si posavano su quella barcaccia, era come se, grazie a uno squarcio apertosi miracolosamente fra le nubi consuete, io avessi scorto, assai meglio che sul soffitto del teatro affrescato con fredde allegorie, il consesso degli dèi intento a contemplare sotto un tendaggio rosso, in una luminosa schiarita, fra due pilastri del cielo, lo spettacolo degli uomini. Rimiravo quella momentanea apoteosi con un turbamento che la sensazione di essere ignorato dagli immortali screziava di pace. La duchessa, una volta, m'aveva pur visto con suo marito, ma di sicuro non se ne ricordava, né io soffrivo del fatto che ella si trovasse, grazie al posto che occupava nella barcaccia, a guardare le madrepore anonime e collettive del pubblico della platea, perché sentivo il mio essere dissolversi felicemente in mezzo ad esso. Quando, nell'attimo in cui, per effetto certo delle leggi della rifrazione, la forma confusa di quel protozoo sprovvisto di vita individuale che io ero, entrò, configurandosi nella corrente impassibile dei suoi occhi azzurri, vidi in essi accendersi un bagliore. La duchessa, da dea fattasi donna e apparendomi d'un tratto mille volte più bella, alzò verso di me la mano guantata di bianco che teneva posata sul bordo del palco e l'agitò in segno d'amicizia. I miei sguardi Si sentirono attraversati dall'incandescenza involontaria, dalle fiamme degli occhi della principessa che, a sua insaputa, aveva provocato quella conflagrazione semplicemente muovendoli per cercar di vedere a chi fosse indirizzato il cenno di saluto della cugina. E questa, avendomi riconosciuto, fece piovere su di me l'acquazzone scintillante e celeste del suo sorriso. Tutte le mattine, adesso, molto prima dell'ora in cui lei era solita uscire, facevo un lungo giro per andare ad appostarmi all'angolo della strada che percorreva abitualmente. Quando mi sembrava approssimarsi l'attimo del suo passaggio, tornavo indietro con aria distratta, guardando in tutt'altra direzione, e non appena arrivato alla sua altezza, alzavo gli occhi verso di lei, ma come se non mi fossi minimamente aspettato di vederla. I primi giorni, per essere più sicuro di non mancare l'incontro, l'aspettavo addirittura davanti a casa, e ogni volta che il portone si apriva, lasciando passare una dopo l'altra tante persone diverse da quella che attendevo, il suo spostamento si prolungava poi nel mio cuore in oscillazioni destinate a calmarsi solo dopo molto tempo. Mai fanatico di una grande attrice che, non conoscendola, stia in piedi ad aspettarla davanti all'uscita degli artisti, mai folla esasperata o idolatrante riunitasi per insultare o portare in trionfo il condannato o l'uomo famoso di cui si creda imminente il passaggio ad ogni rumore proveniente dalla prigione o dal palazzo, furono tanto emozionati quanto lo ero io in attesa dell'apparizione di quella gran dama che, nella semplicità della sua toilette, riusciva con la grazia del suo incedere, così diverso dal portamento di quando entrava in un salotto o in un palco, a fare della sua passeggiata mattutina, in tutto il mondo per me era lei sola a passeggiare, tutto un poema d'eleganza e la parure più fine, la più singolare fioritura del bel tempo. Ma dopo 3 giorni, perché il portinaio non s'accorgesse dei miei maneggi, mi piazzai molto più là, in un punto qualsiasi dell'abituale percorso della duchessa. Spesso, prima di quella serata a teatro, facevo qualche giretto del genere quando il tempo era buono, in attesa dell'ora di colazione. Oppure, se era piovuto, alla prima schiarita scendevo a fare 2 passi e all'improvviso, lungo il marciapiede ancora bagnato, che la luce mutava in lacca d'oro, nell'apoteosi di un crocevia avvolto nel pulviscolo d'un dopopioggia brunito e imbiondito dal sole, scorgevo una collegiale accompagnata dalla sua istitutrice o una lattaia con le sue maniche bianche e m'arrestavo di colpo, immobile, premendomi una mano sul cuore che già si slanciava verso una vita sconosciuta. Mi sforzavo di ricordare la via, l'ora, la porta oltre la quale la fanciulla, che a volte avevo seguita, era scomparsa definitivamente. Per fortuna, la fugacità di quelle immagini vagheggiate e che contavo di rivedere non consentiva loro di fissarsi con forza nel mio ricordo. Eppure mi sentivo meno triste di essere malato, di non aver avuto ancora il coraggio di mettermi al lavoro, di cominciare un libro. La terra mi sembrava più piacevole da abitare, la vita più interessante da percorrere, da quando avevo scoperto che le vie di Parigi, come le strade di Balbec, erano fiorite di quelle ignote beltà che tante volte avevo cercato di far sorgere dai boschi di Méséglise e ciascuna delle quali eccitava un desiderio voluttuoso che lei sola sembrava capace di appagare.